e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, l'ho già detto ieri, le soldatine sono in onda anche oggi. Se volete venirci a trovare, siamo anche in diretta Facebook. Esattamente, se ci volete portare la seconda colazione non ci offendiamo. Volentieri. Perché siamo qua da molto presto, come tutte le mattine. Oppure un aperitivo, iniziate a preparare l'aperitivo esatto. Per mezzogiorno. Esatto, quello che preferite, insomma noi siamo sempre volentieri in vostra compagnia e lo siamo anche attraverso i nostri canali. Adesso vi facciamo il sommario dei nostri argomenti, ma intanto cominciate a mettere il ditino sul telefono. 800 24 0024 per discutere con noi dei temi del giorno. Oggi una puntata quasi interamente dedicata ai giovani, sì, ai nostri figli, anche se io non ho esperienza diretta, però ormai ti toccano. Essendo zia dei miei nipoti e delle tue figlie, so tante cose. Sei avanti, vedi, un ascoltatore ci ha già scritto aperitivo, va bene, allora ottimo, già prenotato. Ottimo, siamo pronti, magari dopo le 11 perché... Sì, dalle 11 e mezza in avanti. Alcolico dai. O analcolico? Tu. Io alcolico. Allora, di che cosa parliamo stamattina? Ci dedicheremo, come dicevamo, per praticamente tutta la puntata ai ragazzi. Farò un piccolo focus per quello che riguarda il tema denari sull'alternanza scuola-lavoro. Vi parleremo di una grande iniziativa che ci sarà domani a livello internazionale del gruppo Adecco. Mm-hmm. E quindi ci rivolgeremo in particolar modo a tutte le mamme e tutti i papà che, come al solito, sono, come dire, molto attenti e attivati quando introduciamo il tema lavoro. Mi è piaciuto, non hai detto preoccupati, hai detto attenti e attivati. E attivati, naturalmente. Giusto, ma sì, anche perché tutti dobbiamo pensare a questa, come dire, fase della vita naturale, per cui non è che lo dobbiamo fare con preoccupazione, anche se adesso il mercato del lavoro ci preoccupa. Attiviamoci positivamente, che comunque magari anche quello è un atteggiamento. Quanto che mi sei diventata zen, mi piace un mi sono cuorizzata. Ti sei cuorizzata. Invece tu come declinerai l'argomento? Certo, allora, se la donna di denari si occupa di lavoro, di opportunità professionali, la donna di cuore parla di cuore, perché i ragazzi devono studiare, prepararsi per il lavoro, per il loro futuro professionale, ma c'è anche dell'altro, perché l'adolescenza è il tempo delle relazioni, è il tempo delle prime storie d'amore e delle amicizie forti, quelle intense, esclusive, e anche proprio attraverso queste esperienze i nostri figli si autonomizzano o cercano di farlo e diventano grandi, e noi con loro. Allora, 800 24 00 24, se state già attraversando questo periodo insieme ai vostri figli, o un po' se invece lo temete, perché sai che sì, quando ci si incontra dice i suoi figli tra poco ti aspetta l'adolescenza, invece è sempre poi... una minaccia. No, peraltro stamattina, essendo festa, non andando a scuola e non lavorando, magari le famiglie possono ascoltare insieme questa trasmissione. Certo. E quindi potete intervenire in diretta tutti, non avete la scusa stamattina che i ragazzi sono a scuola, per cui magari, soprattutto anzi, se siete anche magari qualche adolescente all'ascolto, può all'800 24 00 24 cantarcele, suonarcele. Oh, mamma mia. Sicuramente avranno anche il loro punto dire. Di vista, che certo. È interessante. Peraltro noi dopo avremo anche un esponente molto nota di questa fascia d'età, un influencer, una blogger, sì. Ma non vi dico niente perché prima devo anche raccontare un po' in borsa cosa succede già. Stamattina. Via. Raccontiamo molto rapidamente la giornata di borsa di oggi, che vede gli indici europei consolidare i forti rialzi messi a segno ieri all'indomani del primo turno delle presidenziali francesi, che ha visto l'affermazione appunto di Emmanuel Macron e Marine Le Pen, che a loro volta andranno al ballottaggio del 7 maggio. Ma insomma, ieri lo abbiamo spiegato a lungo, il mercato ormai è convinto che sarà Macron il prossimo inquilino dell'Eliseo a Parigi, e quindi su questa come dire, prospettiva di stabilità europea il mercato ieri è letteralmente volato. Parigi ha guadagnato più di 4 punti, quasi 5 punti di rialzo per Milano, record anche a Wall Street. Stamattina gli indici consolidano le prestazioni di ieri. Milano è positiva, più 0,16%. I migliori titoli: STM più 2,41% sulla scia del record del Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americano, e Salvatore Ferragamo in rialzo di 1,5%. Qua c'è un po' di fermento nel settore del lusso, perché il leader mondiale francese del lusso LVMH ha annunciato di voler acquisire la totalità della partecipazione in Christian Dior, per cui settore in fermento a cui guardiamo questa mattina con interesse. Guadagnano 1,5% anche Saipem e Telecom Italia. Arrivano le prese di profitto su Atlantia, meno 1,78%, Banca Mediolanum meno 0,7%, Exor meno 0,7%. Domani volevo segnalare ai nostri ascoltatori che c'è in edicola con il Sole 24 Ore una guida per approfondire tutte le novità della riforma della scuola che con il varo dei decreti da parte del Consiglio dei Ministri entra nel vivo. Ci sono molti cambiamenti in vista, cambia il sistema di accesso e formazione degli insegnanti, qualche cambiamento per gli esami appunto per gli studenti, diventa obbligatoria sia l'alternanza scuola-lavoro sia la partecipazione alle prove in Valsi. Tutte le novità sono descritte domani appunto nella guida, ma noi partiamo subito proprio a proposito di alternanza scuola-lavoro con il nostro primo approfondimento di oggi. Ti sei già chiesto cosa fare da grande? Il 26 aprile è la Adecco Experience Work Day, dove i giovani provenienti da tutto il mondo incontreranno gli esperti del gruppo Adecco in oltre 50 paesi. Anche in Italia, oltre 100 filiali aprono le porte agli studenti delle scuole superiori per farli avvicinare al mondo del lavoro. È una delle iniziative di alternanza scuola-lavoro che il gruppo Adecco porta avanti ogni giorno per orientare i giovani. Ma perché c'è bisogno di un Experience Work Day? Beh, perché non è mai troppo presto per iniziare a pensare al futuro. Scoprire che le proprie passioni possono diventare un lavoro, ma anche avere consapevolezza di tutto ciò che pubblichiamo online. Allora, io saluto subito Manlio Cirali, responsabile brand di innovazione del gruppo Adecco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. In realtà ho italianizzato e sintetizzato la sua carica. Meglio. Ma le volevo chiedere, le piace il biglietto da visita che abbiamo fatto? Gli abbiamo mandato in onda subito lo spot della vostra iniziativa. Più cordiali di così stamattina non potevamo essere. Straordinario, grazie. Allora, domani è il 26 aprile, lo sapete bene, viene lanciata dal gruppo Adecco l'iniziativa Experience Work Day, che all'interno del programma internazionale Way to Work offre a ben 10.000 giovani studenti di 46 paesi a livello globale una bussola per orientarsi fra le scelte professionali future. In Italia 100 filiali del gruppo Adecco aprono le porte ad oltre 2.500 studenti di scuola superiore in un'unica giornata, e a loro verrà permesso di entrare all'interno delle dinamiche che caratterizzano la ricerca di lavoro, di un'occupazione, e conoscere le attività e le professioni che emergeranno nel futuro. Allora, Ciralli, la faccia lei una domanda ai nostri ascoltatori, alle nostre mamme e ai nostri papà all'ascolto, un po' preoccupati, questa volta questo termine lo riscomodo di nuovo, delle scelte professionali del futuro che saranno chiamati a fare i loro figli. Come li possiamo attivare e coinvolgere questa mattina? La domanda fondamentale va fatta esattamente ai genitori, quindi la domanda per il futuro è comprendere quali sono secondo loro le competenze necessarie perché i loro figli possano avere nel futuro un ingresso nel mercato del lavoro abbastanza fluido. Quindi questa è la prima domanda probabilmente da fare. Allora, gliela facciamo subito all'800240024. Se vi sentite coinvolti nell'argomento che affrontiamo questa mattina, i vostri figli vanno a scuola, una scuola superiore, magari stanno cimentandosi nella preparazione per l'esame di maturità proprio quest'anno, quindi saranno chiamati a fare anche la scelta all'università a breve, o l'hanno anzi già fatta, perché per molte università credo che le prescrizioni siano già chiuse, già molti esami di ammissione sostenuti, per cui è un tema caldissimo per il quale stamattina vi chiediamo la vostra partecipazione. Ciralli, partiamo invece con qualche dettaglio in più dal biglietto da visita di questo Experience World Day. È un progetto globale di Adecco. Ci racconta con quali obiettivi è nato, quali sono stati i passi che vi hanno portato ad oggi, vigilia di questa giornata, e poi spiegheremo anche domani che cosa farete molto concretamente. È un progetto internazionale, come lei giustamente ha detto. Noi domani contestualmente siamo in 46 paesi e ospitiamo nelle nostre filiali, saranno circa 700 filiali tra i 10 e i 15 mila studenti. E soltanto in Italia, visto che oggi parliamo nello specifico di questo, noi apriamo 100 delle 300 filiali che il gruppo ha oggi sul territorio nazionale, per incontrarne circa 2700, più o meno incontreremo 90 scuole, e l'idea è quello di dare un momento di orientamento concreto ai ragazzi rispetto a quelle che sono le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro. La scuola per certi versi è un po' forse distante dalla consapevolezza di quelle sono le trasformazioni rispetto ai modelli organizzativi, rispetto a quelle una che sono le nuove professioni. Una grande accusa che viene mossa spesso e frequentemente. E oggi noi, in virtù del fatto che soltanto in Italia lavoriamo con oltre 11.000 imprese, abbiamo come dire un osservatorio privilegiato rispetto a dove il mercato sta andando e soprattutto a quali sono le competenze necessarie Questa è un'attività naturalmente che una società come la vostra svolge ogni giorno, no? Quella di mettere a contatto la domanda e l'offerta e presumibilmente anche tutti coloro che escono dalla scuola, magari non intendono proseguire gli studi e quindi si mettono subito a disposizione del mercato del lavoro. Perché così tanto risalta la giornata di domani? Ma la giornata di domani ha una parola chiave probabilmente che diventa fondamentale, che è il cercare di spiegare a questi ragazzi il concetto di occupabilità. Il concetto di occupazione tradizionale, quindi quella che qualche tempo fa, forse per generazioni un po' più vecchie, era quello del posto fisso e che oggi un po' poi è diventato quello della flessibilità, si è trasformato in quello dell'occupabilità. L'occupabilità significa che la possibilità nel corso del tempo di essere impiegabile dipende dalla capacità intanto di alimentare quelli che sono ovviamente delle attitudini, dei talenti, ma soprattutto di continuare nel corso del tempo ad essere formato e informato. Quindi l'occupabilità, con la velocità a cui va questo mondo, soprattutto anche in funzione degli impatti tecnologici, passa dalla necessità di avere persone costantemente formate. Quindi il concetto di occupabilità è fortemente legato a quello di essere, in inglese si direbbe upskilled costantemente, quindi di essere costantemente formato, e da lì aggiornare continuamente le proprie skills, appunto le proprie capacità, la propria formazione, cosa che riguarda non solo i ragazzi ma anche noi che siamo un po' più, che siamo delle ragazze un po' diversamente giovani, no Nicoletta? Detto questo, senta, devo andare al traffico perché è già tardi, ma un'altra domanda gliela voglio fare prima di questa breve pausa. Quindi saranno gli studenti che verranno nelle vostre filiali? Apriamo le porte, ecco. Gli studenti vengono alle nostre filiali e incontrano gli specialisti del gruppo ADECO per dell'orientamento. Con quale criterio avete scelto i ragazzi e le scuole? Fondamentale, abbiamo scelto ragazzi della terza media, quindi per cercare di cominciare a parlare a questi ragazzi, perché non è così, non è troppo tardi per parlare del loro futuro, e poi sono le terze, le quarte e le quinte dei licei. Di quali, delle più grandi città italiane? Principali città italiane, 100 filiali su tutta Italia. Ci fermiamo, c'è il traffico, intanto ancora microfoni aperti agli ascoltatori se vogliono intervenire sul tema di stamattina, 800 24 00 24, oppure diretta Facebook, quindi potete mandare anche messaggi da lì, domande. Oppure 349 238 6666, c'è il grande gettonato che è WhatsApp, gli sms costano, non ce li mandano più, ma insomma ci potete raggiungere altrove, tra poco. Cuore e denari. Lo sai che prima di un colloquio, o addirittura prima di fissarti un colloquio, viene data un'occhiata ai tuoi social? Il tuo curriculum vitae è naturalmente fondamentale, ma i social possono raccontare qualcosa di te anche a chi potrebbe offrirti opportunità di lavoro. E lo fai anche tu, non hai mai cercato una persona su Facebook vista ad una festa? Forse non è stata una buona mossa postare la foto di quella serata devasto né farti taggare mentre facevi lo scemo in vacanza. Ovviamente si può fare gli scemi e pubblicare le foto, ma non dimenticare la privacy. Forse sarebbe meglio farle vedere solo agli amici e non a tutti, compreso chi potrebbe darti un lavoro. I social sono luoghi pubblici. Allora, domani è l'Experience Work Day, un progetto, un'iniziativa di carattere internazionale lanciata dal gruppo ADECO. Naturalmente c'è anche la declinazione italiana che stiamo raccontando questa mattina con Maglio Ciralli, responsabile del brand e dell'innovazione del gruppo ADECO. Allora, prima di introdurre la... come mi verrebbe da dire frontman, ma è una ragazza, come la testimonial d'eccellenza che avete preso per questo progetto, in realtà ne avete coinvolti un po', no? Perché anche questo è importante, richiamare l'attenzione dei ragazzi su progetti di così ampio respiro, catturando la loro attenzione con le persone che sono a loro vicine. Corretto. È stata esattamente la riflessione che abbiamo fatta, cioè quella di cercare di arrivare ai ragazzi e di parlargli attraverso coloro che sono probabilmente le persone più capaci di trasmettere, sia per le modalità di canali, no? Che vengono utilizzati, sia per il linguaggio, i contenuti che volevamo loro trasmettere. Ma non l'abbiamo fatto nell'accezione tipicamente, fatemi passare il termine, marchettara, di chi sceglie dei testimoni con i quali cercare di influenzare le persone. L'abbiamo fatto incontrando quattro ragazzi che dal loro punto di vista hanno davvero dato, come dire, espressione al loro talento e quindi hanno condiviso il contenuto al di là di riportarlo semplicemente. Quattro ragazzi che hanno parlato anche di digital reputation, certo. Quindi di cosa significa oggi perché stare loro sul mercato. Sì, loro sono dei creator YouTube. Questa me la deve tradurre, sì. Lo so, perché qua sono... si vede già quanto noi, che non ci riteniamo proprio delle sprovvedute, siamo un po' distanti da queste generazioni, quantomeno per l'uso disinvolto dei social network, degli strumenti di comunicazione appunto che il web mette a disposizione. Ma credo che sia semplicemente un nuovo passaggio, come dire, comportamentale, no? Rispetto, avremo poi adesso un ospite che su questo probabilmente ci potrà anche raccontare meglio, ma i creatori YouTube sono persone che danno libera espressione alla loro capacità creativa, quindi sono dei costruttori di contenuti a tutti gli effetti, e lo fanno attraverso quello che oggi è il principale canale di comunicazione per questi ragazzi, che sono i video. È il più immediato, è il più veloce, forse rispetto a qualche tempo fa hanno anche la capacità di metterci la faccia, che non è semplice, e riescono ad arrivare sostanzialmente ormai ovunque, perché la tecnologia attraverso, come dire, i device, i tablet, gli smartphone è arrivata ovunque. E insomma, con questo giochetto, tra virgolette, gestito molto seriamente, è riuscita a crearsi una rete di 2 milioni di follower. Sofia Viscardi, creator di YouTube, è famosissima fra i giovani, e proprio Sofia domani incontrerà i ragazzi di alcune scuole superiori del milanese presso la sede italiana del gruppo Adecco a Milano. Sofia, buongiorno, zia Deborah e zia Nicoletta ti salutano. Eccoci. Buongiorno a te, grazie per averci concesso un po' del tuo tempo, anche tu, insomma, attivissima. Allora, raccontaci un po' intanto domani che cosa pensi di andare a raccontare ai tuoi coetanei che ti vedranno, seguono, appunto a Milano, che ti seguono, ti amano, dice giustamente Nicoletta. Dunque, mi piacerebbe prima di tutto mettermi a disposizione nel caso loro avessero delle domande su come funziona il mio, chiamiamolo, lavoro, perché anche per i miei coetanei può non essere molto chiaro. Infatti, ma raccontalo spesso anche a noi, guarda Sofia, perché io ti ho, ovviamente mi sono un po' documentata su di te in questi giorni in vista di questa trasmissione, mi sono imbattuta per esempio in un'intervista molto bella che hai fatto a Roberto Saviano, per il quale lui ti ha fatto un sacco di complimenti, e non ti sei dovuta attrezzare chissà con che contenuti, no? Tu con grande curiosità gli hai fatto delle domande proprio per esempio sull'utilizzo dei social network per una figura come la sua. Quindi adesso, a parte questo, cosa vuol dire essere una creator di YouTube? Dunque, è iniziato e comunque continua a essere un divertimento per me, perché ho sempre guardato anche io persone che mi raccontavano della loro quotidianità, e siccome sono una persona che parla molto e che ama comunicare, confrontarsi con gli altri, ho deciso che volevo comunicare anch'io con qualcuno che andasse oltre la mia cerchia di amici. E dopodiché è un po' venuto tutto da sé, non me lo sono mai neanche particolarmente né chiesta né spiegata. E insomma, in maniera molto naturale, quello che veniva, tu lo stavi cogliendo come un'opportunità che è diventata addirittura quasi un lavoro. Tu però quest'anno fai la maturità, Sofia, giusto? Sì, infatti ci tengo a dire che comunque non studi anche non ho molto bisogno, no, vabbè, a parte che studio, non ho bisogno di guadagnarmi da vivere, no? Vivo ancora con i miei genitori, vado a scuola, per cui rimane comunque sempre un divertimento. Non ho mai fatto niente perché avevo la necessità di farlo per motivo economico, diciamo. E ho sempre sfruttato delle occasioni che mi si sono presentate, e quindi è sicuramente interessante poter parlare ai miei coetanei di questo domani, e in più di un discorso più generale che è molto presente e comune tra i giovani, che è quello per cui grazie ai social noi siamo molto più facilitati in qualche modo ad essere lavorativamente parlando. Quello è vero, però tu hai detto, hai espresso un concetto molto importante: sono sempre riuscita a cogliere le opportunità che mi si presentavano. Ti vorrei chiedere, da diciannovenne così vivace, creativa, intellettualmente anche parlando, un messaggio alle mamme e papà che vedono i figli della tua età che invece non manifestano desideri particolari, attitudini, brava, interessi particolari, no? Sai quella, passatemi il termine è brutto ma qualche volta descrive bene questa realtà, un po' quell'indolenza che a volte ti tipica un po' di quei giovani, che magari deve essere solo rimossa dalla superficie, no? Ma sì, magari non è il tempo, ecco. Si arriva poi, esatto, dopo sei mesi magari si apre uno spiraglio, il ragazzo manifesta. E invece quello che mamma e papà vorrebbero suo, subito, no? Che dicessero: da grande voglio fare l'ingegnere, l'astronauta, il calciatore, piuttosto che il cameriere, il barista. Sofia, insomma, non è però facile avere subito un'idea chiara rispetto a come ci si proietta nel futuro nel mondo del lavoro. Che idea hai su questo tema, che è molto importante? Dunque, non è facile assolutamente, ma neanche io stessa ho chiaro che cosa voglio fare da grande, ipoteticamente parlando. Quando mi chiedono questa cosa dico sempre: domanda da un milione di dollari, non lo so, sono comunque come tanti giovani, come tanti miei coetanei, come posso vedere, visto che sono a contatto con loro tutti i giorni, molto flessibile, molto aperta a quello che mi ci si presenta. Poi, mai fare di tutta l'erba un fascio, perché giustamente, come ci sono tanti giovani disposti ad essere flessibili e ad accettare le opportunità che gli si presentano o ad avere le idee chiare, ci sono anche quelli che invece non hanno voglia di applicarsi e preferiscono stare comodi a casa dei genitori finché non gli si presenta un'occasione. Quello purtroppo è soggettivo e non so neanche che cosa poter dire ai genitori a riguardo. Sicuramente posso dire che, essendo a contatto con tanti giovani tutti i giorni, non è vero che nessuno ha voglia di fare, perché invece io vedo tanti giovani che hanno tanta voglia di fare e di impegnarsi per raggiungere degli obiettivi. Però brancolano un po' nel buio, perché questo è il mondo che viene loro offerto oggi, un mondo che ha anche molta confusione. Uh-huh. Sofia, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Sono un sacco di ragazzi pronti a così conversare con te domani in questa iniziativa organizzata dal gruppo Adecco. Maglio Ciralli, fra due minuti di nuovo in pausa per il giornale radio, ma un'altra considerazione possiamo farlo. I giovani sono molto disorientati e vivono in questo mondo in cui ogni giorno anche le dichiarazioni di un ministro vengono prese a pretesto per strumentalizzare tutto il dibattito sul tema del lavoro. Noi abbiamo fatto questa campagna con Nicoletta, chi cerca non trova, aziende che hanno posizioni aperte, giovani che cercano lavoro, e questi due mondi che non si incontrano. È un ministro che dice, secondo noi giustamente, espressa in maniera non corretta magari questa considerazione, ma un ministro che dice molto spesso è meglio un'attività di relazione ben fatta piuttosto che un invio a pioggia di curriculum inutile. Insomma, come vive Adecco tutto questo dibattito così intenso attorno a questo tema? Ma lo schema è cambiato. Fino a qualche tempo fa tu facevi un percorso precostituito, avevi dei genitori, avevi una scuola che ti obbligava a fare un percorso, comunque più o meno sceglievi questo percorso, ma fai anche una scelta di studi che non sempre è consapevole. E poi cercavi di essere, come dire, chiuso all'interno di quello che era uno schema lavorativo nel quale in qualche modo dovevi barcamenarti. Oggi è un po' cambiato, questo schema non esiste più, il concetto di verticalità è un po' passato, e il concetto invece di relazione, quindi networking, c'è sempre stato, forse è stato espresso, come dire, in un modo un po' particolare, ma il concetto di relazione, il concetto di costruzione di contenuti, idee insieme agli altri è fondamentale. Su questo nuovo schema ci torniamo dopo il giornale radio, a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Ma io non sto cercando lavoro adesso. Portarsi avanti fa sempre bene, e iniziare a pensarci ora può aprirti strade interessanti per il tuo lavoro e per il tuo futuro. Tutti possiamo fare degli errori, ma possiamo prevenirli, e quando si tratta di ricerca di lavoro è davvero importante. Allora, il lavoro, il tema al centro di questa speciale puntata di Cuore Denari. Siamo regolarmente in diretta con Nicoletta. Abbiamo pensato questa mattina di occuparci anche delle famiglie, visto che oggi è una giornata di festa, saranno tutte riunite, magari stanno preparando il super pranzo appunto di questa giornata, se non hanno fatto la gita fuori porta, magari sono in macchina e ci stanno ascoltando anche da lì. Parliamo di lavoro, perché domani c'è l'Experience Work Day del gruppo Adecco, quindi in tante città del mondo e in italiane. Il gruppo Adecco apre le porte a migliaia di studenti per così provare a spiegare loro quali sono le nuove dinamiche che attendono al mercato del lavoro, come si incontrano domande e offerte, soprattutto un focus sulle professioni del futuro, perché un tema importante è questo. Ne stiamo parlando appunto con il nostro ospite di stamattina, Maglio Ciralli, gruppo Adecco, responsabile brand e innovazione. Il tema è questo, il tema che non funziona ancora bene, l'alternanza scuola-lavoro ormai obbligatoria anche in virtù della riforma della scuola recente. Voi più che mai testate questo gap, appunto, che c'è ancora questa distanza che separa le persone che escono dalla scuola e le esigenze del mondo delle imprese. Alternanza scuola-lavoro probabilmente è chiave. C'è un modello tedesco che funziona in maniera quasi perfetta, quindi questi ragazzi hanno la possibilità di fare un percorso scolastico e di fare anche, come dire, delle prove, no? Quindi di stare anche all'interno delle aziende e quindi di capire, di comprendere come funziona un'organizzazione. Noi l'anno scorso siamo riusciti a fare alternanza e a fare orientamento a 24.000 ragazzi facendo circa 57.000 ore, ma non basta, perché la buona alternanza è quella che cerca di accorciare il più possibile la distanza che purtroppo c'è tra la scuola e le imprese. Quindi l'alternanza è finalizzata affinché questi ragazzi del terzo, del quarto, del quinto anno all'interno di questo periodo temporale riescano a stare effettivamente in azienda e attraverso l'azienda comprendere poi quelle che sono le logiche che sottostanno al lavoro, alla mansione, certo, alla funzione che andranno a svolgere. Senta, lo spirito che anima l'iniziativa c'è, cioè, assolutamente chiaro. Le chiedo, a vostro avviso, quanti giovani rimangono, mi passi il termine, segnati in senso positivo da un'esperienza di questo tipo come quella che vivranno domani? Più che fare ragionamenti in via teorica, è importante far toccare con mano, no, la realtà delle aziende per capire cosa succede una volta a contatto con i meccanismi produttivi. Non c'è il rischio che giornate come questa rischino di diventare una giornata di quelle che portano i ragazzi a dire non siamo in classe, non siamo davanti al libro di scuola di storia e geografia o di latino, è una giornata diversa, un diversivo, qualcosa di diverso dall'assemblea di classe? Le chiedo, per questo, per arrivare a chiederle, fate anche una valutazione di impatto rispetto a quello che succede poi nelle settimane successive rispetto a questo incontro che permettete di fare domani? Rispondo con due... con due parole: ci vuole ridondanza, ci vuole frequenza. Noi dobbiamo essere ridondanti con questi ragazzi, dobbiamo agire frequentemente su di loro. Ci sarà sicuramente qualcuno che domani pensa che siano, come dire, delle ore fuori dall'aula. Arriverà l'insegnante di italiano a dire tema la giornata l'experience work day, sì. Come andata? Cosa mi stai facendo vedere? No, raccontamelo vedere. Tu dai, che l'hai già letto, così almeno non lo devo rileggere. Mi stava segnando, adesso lo lascio rispondere. No, prego. No, dicevo, probabilmente il passaggio più importante è quello di ispirarli. Queste generazioni, questi ragazzi sono costantemente bombardati da miriade di messaggi. Dall'altra parte hanno delle famiglie che chiaramente hanno anche delle preoccupazioni, ne parlavamo all'inizio della trasmissione, ma il lavoro è la cosa più lifestyle che c'è, chiunque ha bisogno di lavorare. Sì. Quindi questi ragazzi vanno ispirati e in qualche modo vanno anche comprese, laddove possibile, assecondate le loro attitudini. L'attitudine, l'inclinazione, saranno sempre più le competenze, le famose competenze chiave, le famose soft skill di cui tutti parlano, sono molto più legate alla tua capacità di essere determinato, di essere empatico, di essere capace di comunicare correttamente, di lavorare con più persone molto diverse da loro, anche in una logica interculturale, perché sempre di più si va verso la direzione della globalizzazione, dell'internazionalizzazione. Certo, ma non è la prima edizione dell'Experience Work Day? No, non è la prima edizione dell'Experience Work Day, cambia leggermente rispetto a quella di un anno fa. Eravamo noi con le nostre persone delle filiali ad andare per le strade, a incontrare le persone, con risultati comunque importanti, ma forse con quell'impatto meno forte rispetto a quello che ci aspettiamo, dall'aprire invece le nostre porte, da far venire loro da noi e da raccontargli cosa sta succedendo. Certo. In maniera positiva, non è un argomento negativo. No, ma il fatto che ci sia qualcuno pronto anche ad accoglierli, ad ascoltarli, appunto a riceverli per intercettare magari vocazioni e attitudini è importante, perché così questa distanza si colmi. Cos'è che volevi farmi vedere? No, sul Corriere sono riportati i risultati del rapporto Giovani 2017 appena pubblicato dall'Istituto Tognolo. Beh, fotografa in realtà una situazione di giovani che sono un pochino più grandi di quelli di cui ci occupiamo oggi, perché si occupa di ragazzi tra i 25 e i 32 anni, ma quello che emerge da questo articolo è che secondo me, insomma, un segno su cui noi dobbiamo riflettere è che i ragazzi hanno un po' abbassato le loro aspettative nei confronti del lavoro, e quindi credo che anche noi come società, come genitori, io credo molto nella genitorialità sociale, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi, informarli ed educarli, ma continuare a sognare, il che non vuol dire non stare coi piedi per terra, però ecco, non pensare che ormai i giochi sono fatti e si devono accontentare. Possono anche volare in alto, perché il nostro futuro è anche nelle loro mani. Ciralli, le piace questa riflessione? Allora direi di sì. Parliamo adesso di, nello specifico parliamo di quella che è definita a tutti la famosa generazione dei millennial, quindi la generazione che io definisco invece untaggable, che non si sa effettivamente dove vuole andare, è talmente complessa da decodificare che bisogna ascoltarla tanto. Uno dei temi fondamentali è l'ascolto. Probabilmente sia la scuola che i genitori a volte ci poniamo in una relazione che è molto più, come dire, dall'alto verso il basso, e quindi tendiamo noi un po' a guidare quelle che possono essere scelte. L'ascolto è fondamentale, che è l'ascolto comportamentale, di come si comportano quindi questi ragazzi, ma dobbiamo spingerli a riprovarci, continuamente a riprovarci. Cioè i dati sui famosi NEET. Sì. Quando che non sono impegnati i giovani entro i 24 anni, che non sono impegnati in nessun percorso professionale, né di studio, né di lavoro, in niente di niente, esatto, né formativo. Vanno spinti. Quelli per cui era destinata la garanzia giovani, che è andata avanti con momenti di successo alternato a momenti di forte contestazione nei confronti di questo programma, però insomma qualche cosa si è provata a fare. Poi c'era tutta l'intermediazione dei centri per l'impiego, che sappiamo pure sono sempre travolti da ondate di polemiche, ma insomma. Ma senta, Ciralli, ci sono un paio di considerazioni di due ascoltatori, e una, quella di Marco da Milano, attiene proprio alle considerazioni che stavamo facendo a microfoni spenti. Che cosa, chi ci consegna la scuola e l'università, e come sono questi giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro in rapporto alle esigenze del mercato del lavoro, molto spesso con delle competenze che alle aziende non servono. E allora Marco da Milano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Io in realtà i miei figli non sono ancora usciti dall'università, vorrebbero andarci adesso. Il mio grande l'anno prossimo si iscriverà a fisica, e quell'altra tra qualche anno vorrebbe fare design. Eh beh, insomma, con il nostro straordinario Made in Italy, già il fatto che abbiano espresso con una certa nettezza, mi sembra, la loro predisposizione, Marco, mi sembra già, oppure gliel'ha dovuta tirar fuori dalla bocca. No. No, il grande vuol fare fisica da quando era 3 anni, e quindi quello non aveva dubbi. Piccola ha cambiato idea un po' di volte, ma adesso che ha 15 anni mi sembra già più decisa su questa cosa del design. La porti al Salone del Mobile quando c'è a Milano, insomma abbiamo tante cose belle da far vedere, quindi questa voglia secondo me è un bellissimo settore quello. Quindi Marco, la sua domanda, mi scusi che la sto interrompendo continuamente. La mia domanda era, con tutti quelli che vogliono fare architettura e design, penso fisica più o meno ci si adatta, però anche lì non è che posti da fisici se ne trovino chissà quanti, dalla DECO non so quanti cercano. Ma guardi che molti laureati in fisica possono essere impiegati addirittura anche in finanza, in realtà ci sono degli sbocchi poi in settori che non immaginiamo neanche. Ma Ciralli, ma ci sono tutti questi giovani che vogliono fare architettura ed ingegneria? Perché per me sulla carta, per esempio, il design, che mi piace molto, è un campo da esplorare invece, perché è ricco di opportunità, o mi sbaglio, con il nostro Made in Italy? È ricchissimo di opportunità e forse invece abbiamo pochi che riescono, professionisti, pochi professionisti veri, ma il mercato ne chiede anche tanti. Quindi il design è sicuramente una diciamo delle professioni, quindi bisogna fare architettura, bisogna fare delle specializzazioni. Però aggiungo una riflessione: il mercato non è più domestico. Chi fa questo tipo di studi deve guardare al mondo. Quindi se noi consideriamo che mio figlio deve fare degli studi perché questi studi siano poi finalizzati a trovare un'occupazione in Italia, forse è vale una ancora riflessione un po' piccola, ieri, ma ecco, non più nei prossimi 3-5 anni. Quindi guardiamo al mondo. Certo. Guardiamo a certi mercati, e queste sono professioni, quindi mi sento di rassicurare l'ascoltatore dicendo che se un figlio sta facendo fisica e l'altra figlia vuole fare architettura ma finalizzata al design, e quindi non finalizzata a fare l'architetto con la crisi edilizia che c'è in Italia, allora mi viene da dire che la scelta è corretta. Può anche lavorare per un'azienda che produce, tra virgolette, mobili che vende in Cina, quindi adattarsi a quel mercato, quindi magari provare intanto a fare delle esperienze in giro per il mondo in quel senso, per poi rientrare e mettere a disposizione la sua esperienza. Quindi in comunque realtà bisogna pensare in grande, senza confini. Senza confini geografici. C'è un credito anche, devo dire. C'è il credito che questo è il paese del design. Per cui, a parità di condizioni, un italiano viene valutato come già per il fatto solo di essere ma noi siamo italiani, il paese dell'umanesimo, quindi probabilmente ma guardate già per quello che succede a Milano quando ci sono questi saloni, quanta gente viene a continuare a fotografare tutte le vetrine per catturare le idee, lo stile, tutto quello che ci contraddistingue in questo campo che è meraviglioso. Però in realtà poi anche quei settori teoricamente in overbooking, io ho fatto delle trasmissioni per esempio sulle professioni legate al cibo, alla cucina, no, e immaginavo con grande pregiudizio che fossero già dei settori straoccupati, no? Che non avessero bisogno di nuove persone che si formano. In realtà mi ha raccontato suoi colleghi di altre agenzie che si sta alzando l'asticella della qualità richiesta di queste professionalità, per cui c'è bisogno ancora di grande esperienza in questo settore, di professioni c'è ancora bisogno. L'importante è che ci si presenti non con lo spirito di dire siccome questo ormai è un settore che impiega tutti, andiamo, prepariamoci, facciamo un corso da chef o da pasticcere perché ci sono 10 aziende pronte a prenderci. No, in realtà dobbiamo prepararci ancora meglio. No, che tu ne pensa? Bisogna prepararsi sempre meglio. Ritorniamo un po' al concetto iniziale, che è quello dell'occupabilità. Quindi la formazione gioca un ruolo fondamentale e l'essere costantemente aggiornati giocherà sempre di più un ruolo fondamentale. Bisogna scegliere la formazione di qualità. Bisogna fare dei passaggi formativi che impongono passaggi di qualità e più distintivi rispetto ad altri. 10 secondi a Irene e Nicoletta glieli concediamo velocemente, poi salutiamo Mario Ciralli. Irene, benvenuta, grazie. Sì. Buongiorno a voi. No, io mi volevo semplicemente riallacciare al discorso iniziale del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, perché io ho l'esperienza di un figlio che frequenta un liceo scientifico a Firenze, insomma famoso, diciamo, liceo scientifico, un importante liceo scientifico, dove purtroppo, ma questa non è assolutamente una polemica di statistica, semplicemente che non c'è proprio attualmente, anche il corpo dei docenti non hanno minima idea di quello che debbano fare, di quello che i ragazzi debbono, cioè i ragazzi fanno delle scelte che poi vengono rifiutate, non ci sono posti, non ci sono disponibilità, quindi diciamo che per il momento non è proprio contenta della opportunità che ha avuto suo figlio, ecco Irene, per dirla un po' con una maniera diplomatica. La sua esperienza non è stata positiva. Mario Ciralli, concludiamo con un messaggio sull'alternanza scuola-lavoro. In questo caso l'esperienza non è stata positiva, altrove invece si chiudono queste esperienze positivamente. Voi ci provate, peraltro, come ha detto, siete aperti su tanti fronti. Siamo aperti su tanti fronti, abbiamo addirittura a novembre scorso lanciato un portale e l'abbiamo sostanzialmente, come dire, messo a disposizione di scuole e aziende. Si chiama Portale dell'Alternanza Scuola-Lavoro, dove le aziende che sono disposte a ospitare dei ragazzi e le scuole che lo vogliono fare, quindi c'è un tema anche lì di conoscenza, possono inserirsi, quindi possono sostanzialmente far parte degli elenchi e fare il match per portare dentro dei ragazzi, ma in un percorso strutturato che vede noi dietro rispetto alla parte di tutorship. Benissimo, grazie per essere stato con noi. Lei domani va in qualche scuola ad incontrare domani in qualche sede di i ragazzi nel nostro headquarter all'incontro con Sofia Viscardi. Esatto. Perfetto, grazie molto a Mario Ciralli, ad Eco Group, per essere stato con noi. E adesso cambiamo un po' dimensione. Perché tutto cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo, cambierà, finché il mondo girerà. E a proposito di cambiamento, i nostri figli sono dei veri maestri, dei campioni direi, cambiano rapidamente, a volte radicalmente, tanto da sembrarci irriconoscibili. Voi lo state sperimentando, oppure non ci siete ancora. Ma chi è questo mostro che si è svegliato stamattina a casa mia? E che ieri sera non c'è un pezzo bellissimo di Alessandra Faiella che se ci segue, lei pensato, esatto. La salutiamo perché è una grande amica che è così, metti a dormire la ragazzina alla sera, al mattino dopo apri la porta e c'è un alien. Ma in linea con noi non abbiamo un alien, ma una grande esperta, la dottoressa Laura Turuani, psicologa e psicoterapeuta, socia dell'Istituto Minotauro di Milano, punto di riferimento naturalmente per chi si occupa di adolescenza. Buongiorno dottoressa, benvenuta. È una new entry. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. È una new entry di Cuore Denari, sono benvenuta, certa che ti piacerà allora. Molto. Allora, per questo che ci voleva il famoso aperitivo di prima. Vedi? Allora, intanto 800 24 00 24, parliamo di loro, parliamo di noi, perché se è vero che i figli ci mettono alla prova come genitori e come persone, diciamo che gli adolescenti, proprio questa la, i ragazzi, la fascia d'età di cui ci occupiamo, sono davvero molto abili nel farlo, sembrano proprio geneticamente programmati, tanto che a volte non si sa proprio da che parte prenderli. I castighi non funzionano, le prediche nemmeno, il modello genitore amico, dottoressa Turuani, ce l'avete bocciato. Una cosa che abbiamo capito, e forse magari non è neanche giusta, ma è che sono diversi da noi, e spesso si rimane spiazzati perché noi non abbiamo più modelli a cui ispirarci, in cui ritrovarci, brancoliamo un po' nel buio. Però io l'ho passata, perché ormai le mie figlie non sono più adolescenti, direi che sono quelle che sono nella seconda adolescenza, nella terza, perché poi rimangono adolescenti tutta la vita. Comunque non è poi così brutta come la dipingono, perché i ragazzi sono complicati, tosti, indisponenti, ci preoccupano, ci fanno arrabbiare, ci offendono, hanno dei giudizi che ti tagliano a metà, riescono a dire delle cose terribili, ma sono unici, sanno essere davvero speciali. Allora, dottoressa Turuani, abbiamo parlato dei ragazzi alle prese col lavoro, confusi, a volte non hanno le idee chiare, non sanno che cosa fare, stanno vivendo sicuramente, assorbendo questa crisi che si respira e si tocca. Lei, che i ragazzi li conosce, li accompagna, ci fa un ritratto degli adolescenti di oggi, magari spogliandole da quei pregiudizi, da quei luoghi comuni che facilmente gli appiccichiamo addosso? Sì, certo, molto volentieri. Ma la invito a nozze, perché lei li adora, gli adolescenti. Sì, è proprio una scelta, una vocazione. Dunque, intanto è vero, questo voltafaccia che spesso viene descritto dai genitori, un po' anche che ci contattano, che raccontano questi ragazzi proprio come dei nuovi soggetti antropologici. Intanto, come dire, li raccontano super distanti dai bambini che hanno tanto amato in questa infanzia effettivamente di oggi, pienissime di relazioni e affetti. E come dicevate voi, è vero, un po' richiedono di imparare a conoscerli, cioè dobbiamo un po' acquisire delle nuove competenze, perché in qualche modo sono distanti un po' anche dalle nostre adolescenze, non dall'adolescenza a cui noi possiamo fare riferimento pensando alla nostra storia. Beh, intanto i ragazzi di oggi sono il frutto della famiglia di oggi, no? Di questa trasformazione epocale che è avvenuta, che ha visto proprio il tramonto della famiglia normativa e l'avvio della famiglia affettiva, la famiglia di oggi piena di legami in cui transita più affetto che regole, con pochissima distinzione di potere o generazionale, dove impera il dialogo, l'empatia, la democrazia. Dicevamo prima, è vero, i ragazzi di oggi sembrano più votati a obbedire per amore che per paura delle punizioni. Le punizioni sono un po' cadute in un cono d'ombra, lasciano più il posto alla paura di deludere, forse questi genitori che hanno così tanto investito, no? Nei figli, che sono oggi frutto di molte aspettative, insomma, molto amati e molto valorizzati. Dopo questa infanzia, gli adolescenti che troviamo sono ragazzi spesso pieni di talenti, pieni di competenze, li abbiamo nutriti, ipervalorizzati, a volte insomma sono stati anche in queste famiglie molto dialogiche in cui sono stati abituati al dialogo, alla comprensione degli affetti, delle emozioni, forse sono un po' sregolati, poco inclini alla noia, alla frustrazione, alla solitudine, ma soprattutto sono ragazzi un po' fragili rispetto all'idea di dover un po' rispondere a tutte queste aspettative e ideali con cui sono stati un po' nutriti. Ipernutriti d'affetto, troppo un pochino. Comunque, anche per loro, cito il titolo di un libro che lei sicuramente avrà letto, di un nostro amico di Cuore Denari, Alberto Pella, è L'età dello tsunami, a indicare quella della preadolescenza, dove Alberto Pella e Barbara Tamborini danno anche una descrizione di quello che succede nel cervello di un adolescente. E quindi, insomma, nell'età dello tsunami ce lo troviamo. Tanto che aspettiamo questo tsunami anche quando i bambini sono piccoli, cioè quasi lo temiamo e ci preoccupiamo. Cesare, buongiorno da Cremona, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Io appunto a questo mi volevo ricollegare. Io ho 4 figli, tutti piccoli, e sto prendendo un po' il problema alla lontana, perché mi sto ricominciando si prepara, Cesare. Esatto, mi sto preparando. Scientificamente penso che non ci siano molte, come dire, risposte a queste situazioni. Bisogna essere, bisogna subire delle metamorfosi, ma noi adulti, perché i bambini lo fanno naturalmente. E diciamo che questa cosa con mia moglie stiamo iniziando ad affrontare. Io ho 4 figli, uno di 7, la prima di 7, la seconda di 5 e 2, che hanno appena compiuto 2 anni. E pensiamo che la cosa importante sia proprio creare un rapporto con loro già adesso, un rapporto di sincerità, non di comprensione, perché l'autorità è fondamentale, non di amicizia, e nel reciproco ascolto. Quindi allora perché... Cesare sta seminando, dottoressa Turuani, dice parliamo, ci confrontiamo, diventiamo... Non posso usare la parola amici perché sennò la le psicoterapeuti già ti bacchettano, ma insomma creiamo un po' la famiglia, quella dove creiamo si condivide. Creiamo i semi per un legame e i semi per la crescita, che poi è importante che germinino in adolescenza un pochino anche... come dire, da soli. Durante l'infanzia si semina tanto ed è importante poi a un certo punto sapere che, come dire, questi semini che abbiamo appunto con tanta pazienza e tanta dedizione messo dentro nella mente, nel mondo interno, nel mondo esterno, i nostri figli poi siano capaci di germinare in adolescenza. Ecco. E poi comunque poi l'adolescente diventa una cosa un po' diversa dal bambino che abbiamo coccolato, eccetera. Dai, adesso non è che si trasforma con le creste, con le borchie, i denti che vengono giù, però insomma ti dice delle cosine che quando era piccolo non ti dice, non ti diceva, dottoressa Turuani. Ma sì, le dice, adesso dirò una cosa che risulterà un po' impopolare, però è evidente che la qualità della rabbia e dell'aggressività che avviene sempre nei legami più forti. Quindi voglio dire, il conflitto è anche qualcosa che in qualche modo fa crescere, perché è un modo per portare le proprie istanze, le proprie idee, i propri valori, le proprie decisioni. E quindi, quindi più ci manda a stendere, più significa che è legato a noi? No, più si può discutere anche animatamente, tenendo conto di una posizione alterna, no? Alternativa, che sta prendendo in qualche modo una forza e una forma, e quindi non a stendere, no, perché quindi si perderebbe di valore educativo, ma come dire, dove si può discutere tenendo conto che l'altro inizia ad avere le sue opinioni ed è giusto, certo, come dire, coltivarle. È giusto, deve autonomizzarsi. Allora, a casa vostra di che cosa si discute? 800 24 00 24, i vostri figli vi stanno dando del filo da torcere. Noi vogliamo partire da qui per parlare anche dei ragazzi innamorati e delle amicizie che nell'adolescenza sono sicuramente molto importanti, come lo sono anche nell'infanzia, e che assumono dei caratteri particolari e sono assolutamente utili. A volte noi genitori vogliamo intrufolarci, non sappiamo invece se fare un passo indietro e vederli alle prese con i primi batticuore, ma ai nostri ragazzi batte il cuore allo stesso modo che batteva noi quando eravamo innamorati, o è cambiato anche qui qualcosa? 800 24 00 24 per raccontarci l'esperienza che state vivendo o che avete vissuto. Ma adesso è tempo di andare a sentire i mercati, la che borsa. Non so se sono innamorati. Sì, si sono innamorati di Macron qua da ieri, altro che, altra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Mio cuore, tu stai soffrendo. Soffrono per amore i ragazzi di oggi. 800 24 00 24 a Cuore Denari è in diretta. Stiamo parlando dei ragazzi. Prima ci siamo occupati di lavoro, adesso vogliamo pensare al cuore, alle prime storie d'amore dei nostri figli, ai primi batticuore, che è una tappa obbligata dell'avventura della crescita di ogni figlio, maschio o femmina che sia, su cui i genitori si interrogano. Vanno preparati? Ci si pensa al momento? Non si fa nulla? Si fa finta di nulla? In linea con noi abbiamo la dottoressa Turuani, che ci aiuta, del Minotauro, psicologa e psicoterapeuta, che ci aiuta un po' a vederci chiaro. Ma dottoressa Turuani, prima di capire se l'amore ha un peso differente o delle connotazioni diverse per i giovani d'oggi rispetto a quello che l'aveva per le generazioni passate. Ascoltiamo l'intervento di Christian da Padova, perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di animare la nostra trasmissione in questo giorno di festa, e allora vogliamo dare loro spazio. Christian, benvenuto, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io sono padre di un ragazzo 14enne, adottato quando aveva 5 anni e mezzo, e vedo una progressione purtroppo negativa nei nostri confronti, cominciata con gli insulti, eccetera, e negli ultimi giorni anche con episodi molto violenti nei confronti delle cose, quindi un po' per dispetto, un po' calci per spaccare le cose, e anche verso le persone, quindi in particolare. Allora, per me ha superato il limite, ovviamente, sono un po' in difficoltà. Però volevo capire se... Grazie Christian per condividere con noi questo momento, che è difficile per un genitore, per una coppia di genitori. Dottoressa Turuani, lei accompagna storie di questo tipo, e la situazione che descrive Christian è anche di violenza, non solo verbale ma fisica. Un ragazzo che sicuramente è in grande difficoltà, ma mette in difficoltà anche i genitori. Christian dice ha superato il limite. In questi casi come si interviene? Quando chiedere aiuto ad un esperto, affidarsi ad uno psicoterapeuta è necessario, o quali passi devono essere fatti prima? Sì, dunque, difficile rispondere chiaramente senza avere molte informazioni su ogni caso che va visto e preso singolarmente in maniera molto seria. Però è vero che quando sentimenti molto forti come quelli di Christian, no, in qualche modo raccontano i ragazzi vivono sentimenti come il dolore, l'angoscia, la paura, la rabbia in questo caso, no, che in qualche modo attaccano le relazioni significative e in qualche modo tutto quello che possiamo considerare il loro futuro, la speranza di potercela fare nella vita, quindi quando i ragazzi in qualche modo appunto non rispettano più i legami significativi, non dedicano tempo abbastanza agli amici, non hanno il coraggio di amare, non hanno le energie per la scuola, manifestano odio verso il proprio corpo, rabbia appunto in qualche modo eterodiretta o autodiretta, o hanno bisogno di spegnere tutte queste fortissime emozioni che spesso l'adolescenza in qualche modo chiama, con le sostanze, con il sonno, con l'inedia, con la tristezza, eccetera. Queste sono situazioni che possono ritrovare utilità, no, in uno spazio psicologico in cui si aiuta tutte le parti in causa a capire meglio intanto come tornare a stare bene insieme, no? E riattivare in qualche modo delle relazioni che possano nutrire la crescita, il futuro e la riattivazione della speranza, che è il motore primario della crescita. Dottoressa, Christian diceva ha superato i limiti. La situazione di Christian, probabilmente considerato anche magari il percorso che ha fatto il bambino, ha probabilmente bisogno di un sostegno, di un aiuto, di uno psicoterapeuta. E tra poco andiamo all'amore. Nel dialogo, quando l'adolescente cambia e iniziano i primi litigi, come insegnare, imparare reciprocamente come coppia di genitori e ragazzo a litigare in modo sano, a scontrarsi senza ferirsi nel profondo, lei ha detto, e lo sappiamo tutti per esperienza diretta, che da questi scontri nascono poi il rapporto, si fortifica, anche il ragazzo prende consapevolezza di sé e cresce, ma devono essere fatti in un determinato modo. È possibile insegnarlo, impararlo? Ma credo di sì. La cosa più difficile da imparare è la sottile differenza che c'è tra questioni psicologiche e questioni educative. Nel senso che appunto credo che nessuno psicologo avrebbe mai la presunzione di far tollerare mancanze di rispetto, no? Nel senso che un conto è quando ci sono appunto questioni educative, in cui di rispetto, di educazione o di maleducazione, un conto è quando anche quei livelli di conflitto o di incapacità di tollerare quote di rabbia così elevate sono frutto di fragilità psicologica. psicologiche, sì, no? E allora appunto anche la lettura di comportamenti che possono essere evidentemente considerati assolutamente negativi, sbagliati, violenti, eccetera, debbono comunque passare attraverso una risimbolizzazione, cioè attraverso una lettura che aiuti tutti i genitori e i ragazzi a comprendere il valore affettivo, no? Che in qualche modo possono avere dentro un manifestare dentro dei comportamenti delle fragilità psicologiche, no? Quindi ecco, bisogna individuarli. È una differenza molto sofisticata che però è la prima cosa da fare, no? Capire appunto se dietro quell'aggressività c'è una maleducazione, o una fragilità. Allora, questo è diciamo la distinzione primaria da effettuare. E lei può darci qualche strumento per capirla? Ma tendenzialmente, appunto, senza voler banalizzare... No, ma certo, stiamo banalizzando, ma stiamo probabilmente accendendo dei pensieri o dando delle indicazioni che possono cadere assolutamente nel vuoto, perché necessariamente saranno anche un po' ovvie di buon senso, ma chissà mai, potrebbero accendere la lampadina per qualcuno. Proviamoci, dottoressa Turruani, scrivere appunto, un trattato di psicoterapia, ma vogliamo un po' metterci così, chiacchierare tra amici, però con un'amica che è un'esperta, ecco. Certo, allora appunto diciamo, diamo per scontato che la relazione tra genitori e adolescenti comunque debba transitare, no, verso parti appunto di discussione e di conflitto in cui sostanzialmente la cosa primaria, no, da in qualche modo tenere sempre come sottotraccia è come dire, il fatto che il legame non si rompa. Sì. Perché se c'è una cosa che l'adolescente comunque teme più di tutto, nonostante le sue manifestazioni così di supponenza, è in realtà il voltafaccia dei genitori. È come se il tiro alla fune, no, che avviene dentro nella relazione deve essere un po', tra virgolette, tenuto da lui, no? È lui, sì, che può tirare o lasciarsi andare o riavvicinarsi, come spesso accade in tutte le relazioni più evidenti con i ragazzi, che di giorno fanno tanto gli spavaldoni fatti di creste, giubbotti, autonomie, parolacce, sfide, poi di notte magari tornano di nuovo a chiedere coccole, abbracci o bisogni di vicinanza. Quindi tollerare un po' che sia il ragazzo che tiene un po' le redini di questi bisogni di emancipazione, quindi di sentirsi capace di fare da solo e poi poter sentire di tornare all'ovile, come si dice, a sentire quella vicinanza e quell'affetto che deve essere dato per scontato, insomma, no? Nel senso che la tenuta del legame è importante, certo, che venga dichiarata primariamente dai genitori. Insomma, perché... ci mettono alla prova, ma ce la faremo. Valeria, buongiorno da Milano, che interviene all'800240024. Valeria, buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Allora, sono una mamma di due figli, felicemente sposata oramai da 25 anni. Sì. I miei ragazzi hanno 18 e 20 anni, quindi molto vicini uno con l'altro. Sono assolutamente in linea con tutto quello che avete detto, perché ho sperimentato sulla pelle mia e di mio marito queste, diciamo così, improvvisi cambiamenti dei ragazzi, dei teenager. Si sveglia la mattina, poi improvvisamente ti arriva un ceffone perché li trovi qualcun altro completamente diverso. È vero. Cioè è un ceffone fondamentalmente. Ragiono sul fatto che sono molto vicine di età, ma sono completamente diversi caratterialmente. Lei ha molto senso del dovere, nonostante noi abbiamo trasferito ad entrambi il buon senso, il senso del dovere, insomma tutte queste belle parole che ci aiutano un po' a crescerli, no? Però sono molto diversi, però paradossalmente anche molto uniti, in quanto sono tutti e due molto sensibili, quindi da un certo punto di vista si aiutano molto uno con l'altro. Quindi lei ha molto senso del dovere, studiosa, lui ci ha fatto vedere, diciamo così, i sorci verdi, però adesso, diciamo così, un po' sulla retta via con alti e bassi. La mia conclusione, dopo tutto questo, diciamo così, racconto, è che con tutta la buona volontà che ci possiamo mettere noi, ma secondo me c'è una buona dose di fortuna. Sì, anche quello. Su come crescono loro e sul loro aspetto caratteriale. Questo l'ho un po' notato, perché noi ci siamo mossi esattamente con tutte e due allo stesso, cioè, stessa poi, modalità, certo. Certo. Sì, poi uno si avvicina in un certo modo, poi è vero, la nostra generazione è completamente diversa da loro, quindi mi sono iscritta su Instagram anche per capire, non per andare a curiosare, per vediamo, capire come ragionano. Attenzione, attenzione, perché la dottoressa Turuani ha scritto un libro, Mamma Avatar, di cui parliamo tra poco, di mamme che si avvicinano e forse controllano. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, e devo stare un po' da sola. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo. Cara ti amo, e non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Allora, adolescenti alle prese con mamme e papà, i primi litigi di quelli quasi un po' furiosi, la rabbia, l'amore, gli amici. In linea con noi la dottoressa Turuani. Dottoressa, la mamma che è intervenuta ci ha un po' descritto la sua situazione, ma io le ho detto attenzione, la dottoressa Turuani ha scritto un libro in cui è andata a vedere le mamme che lei ha detto, il titolo è Mamma Avatar, Mamme Avatar al plurale o al singolare? Mamme Avatar. Mamme Avatar. Ecco, sono mamme, purtroppo sono tante, ahimè, forse ci sono dentro anch'io. Un profilo di mamma che lei ha ben studiato e che, come sempre, poi le colpe sono sempre delle mamme, no? Se si fanno danni si va sempre a cercare non la fam, ma la mam. Dottoressa Turuani. No, assolutamente non parliamo di colpe, assolutamente, ma di un nuovo modo di interpretare il ruolo materno oggi, nel senso che la mamma moderna di oggi arriva a fare la mamma dopo aver investito tanto tempo ed energia anche in tanti altri ruoli, è una donna, diciamo, della società, assolutamente intrisa dalla società narcisistica che vuole fare tutto e farlo al meglio, quindi ha questa spada di Damocle, e quando arriva a fare la mamma anche qui vuole, come dire, fare tutto e farlo essere al all'altezza meglio. Della situazione, essere all'altezza, quindi come dire, deve intanto risolvere un primo dilemma pazzesco per la mamma di oggi, cioè come stare vicina anche da lontano. Oggi la mamma chiaramente è quasi sempre una mamma lavoratrice, e quindi insomma deve tenere insieme tante parti di sé, la donna, la moglie, la lavoratrice, la professionista, la sportiva, l'amica e quant'altro. Quindi diciamo che è una mamma che tendenzialmente utilizza molti strumenti nuovi, che sono un po' i cloni e i collaboratori, asili nido, scuole, palestre, nuoti, nonni, tutti i vari allenatori che sono in qualche modo radiocomandati un po' a distanza da lei, nel senso che i bambini di oggi hanno tantissime attività in parallelo, molto socializzanti, molto impreziosenti, che vengono un po' utilizzate tra virgolette come abbandonici, no? Insomma, sono bambini che appunto a cui si danno tante risorse, e poi sicuramente le nuove tecnologie consentono alla mamma di oggi di garantire quantomeno una presenza simbolico virtuale, nel senso che effettivamente il messaggino, il file vocale, la fotina durante l'infanzia, fino ad arrivare, purtroppo diciamo, perché in realtà durante l'infanzia questa cosa può anche essere utile, che appunto tra la mamma e il bambino transiti una vicinanza, un bisogno di stare sempre in contatto, come è giusto che l'infanzia in qualche modo chieda. In adolescenza spesso questa cosa non si fa, non si dovrebbe fare. Armi, la mamma fa fatica a rinunciare a registri elettronici, geolocalizzazioni, gruppi WhatsApp di mamme usate come controspionaggi metropolitani in cui se non vede una vede l'altra. E questo diciamo che garantisce un po' meno quella funzione evolutiva dell'adolescenza importantissima, che è autonomia, no? E il bisogno di sperimentarsi anche in spazi di segreto, anche di piccole bugie, se vogliamo, utili a prendersi la responsabilità per quello che si sta facendo in quel momento. Adesso non, nulla più sfugge. Cioè, nulla più sfugge. Ecco, perché non lo so, chi di noi non ha saltato, non è andato, come si dice, nelle bigiare, Marche? Bigiare, ecco, poi credo, ogni, ecco, bigiare. Io lo ecco. Dico, non è elegantissimo. Fare? Fatto seghini. Ecco. Bueno, l'abbiamo fatto tutti e invece adesso i ragazzi di oggi vengono subito beccati e così anche i filarini in qualche modo entrano anche nelle case e quindi hanno il placet della mamma o del papà. Luigi da Milano, buongiorno. Lei cioè, è fulminata. Chi è? Sì. Luigi? Sì, Luigi? No, Luigi pensavo che... Non c'è, Luigi è caduto. Dottoressa Turuani, parliamo sugli ultimi. Ci siamo attardate a raccontare tutte le difficoltà, ma anche le cose belle che comporta accompagnare un figlio, dei figli che crescono, e non abbiamo parlato di amore. Un amore, allora, a cui dedicheremo poi una puntata speciale. Naturalmente si innamorano anche i nostri figli, magari della ragazzina o del ragazzino che non ci sembra carino, su cui come mamme, come genitori diciamo la volta buona, è così brava a scuola, lo farà studiare. Però i ragazzi di oggi si innamorano in modo diverso o sbaglio? Sì, un pochino diverso, sì, un po' diverso. Allora, intanto dobbiamo dire che amare è da sempre, come dire, un'esperienza fondamentale nella vita dei ragazzi, da sempre aiuta a crescere, perché amare appunto significa trovare quote di affetto alternative a quelle esperite in famiglia, no? Quindi poter rinunciare in parte appunto a quello, perché si transita in altri modi, in altre relazioni altrettanto significative, aiuta a sperimentare appunto l'intimità, l'autonomia, il segreto, a comprendere cosa eccita, cosa disgusta, a collaudare le nuove dotazioni corporee che chiaramente l'adolescenza regala. E insomma è fantastico, sì, meno male che l'hanno inventato, dai. Quindi diciamo che però oggi più di un tempo rappresenta, come dire, anche proprio un'esperienza al servizio della crescita. Se pensiamo che un tempo per amore un po' si rischiava di sacrificare tutto e tutti, no? Addirittura si facevano sacrifici umani, gli amici, la scuola, lo sport, no? Sì. Adesso è difficile che i ragazzi in qualche modo non selezionino invece anche in questo senso i propri partner quasi come dei complici, dei compagni di strada, degli allenatori, delle muse, cioè con cui far società, condividere, coprogettare, con cui crescere un po' insieme. Cioè la coppia diventa un po' al servizio del sé e del proprio progetto futuro. L'autonomia è un titolo di merito, nel senso che difficilmente adesso si sentono, soprattutto devo dire le femmine, a cui si transita un po' meno valori di femminili tradizionali come erano quelli di un tempo, della dedizione, della sacrificialità, eccetera. E in realtà le si cresce con appunto delle pari opportunità educative. Gliel'abbiamo detto che il principe azzurro non è mai esistito. Il principe azzurro non è mai esistito, e come dice mia figlia, il principe azzurro non ha nome. Non ha, su due cuori e una capanna io avrei le mie perplessità. Nel senso che bastava semplicemente che fosse azzurro, invece adesso bisogna un po' conoscerlo, selezionarlo e deve essere un po' utile a condividere un pezzettino di vita insieme. Difficilmente oggi per la coppia si rinuncia a delle esperienze che possano in qualche modo nutrire il proprio percorso di crescita, pensiamo non so agli Erasmus, ai quarti anni all'estero, ma anche in maniera più facilmente gli sport, gli amici, insomma. Se si è troppo appiccicosi oggi non si è così tanto amabili, diciamo, è più facile trovare ragazze e ragazzi che dicono, che inneggino e che amano le loro autonomie, insomma, nel senso che la coppia è una cosa bella, fondamentale, ma un pezzettino che va. Ecco, ci sono integrato. Però ragazzini, abbiamo proprio un minuto per commentare esperienze di giovani coppie, parliamo naturalmente sempre di adolescenti, che vivono a tutti gli effetti come una coppia a casa dei genitori. I genitori accettano questa unione e i ragazzi, insomma, prendono la casa dell'uno, dell'altro, di entrambe un po' come la loro casa, e quindi hanno dei ritmi che sembrano quasi quelli di una coppia ormai sposata o convivente. Dottoressa Turuani. Sì, io credo che spesso queste coppie siano non tanto emancipative ma un po' regressive, nel senso che appunto in realtà non vanno tanto come dicevamo prima, nel garantire alla coppia le sue funzioni appunto di autonomia o emancipazione, luogo di debutto, di collaudo, ma sono coppie che si reinfetano un po' giocando alla doppia coppia, che gioca a burraco il sabato pomeriggio, sabato sera con i genitori, o va nella casa al mare di uno, la casa in montagna dell'altro, se ci si divide le vacanze, eccetera, dove appunto si perde un po' questo pezzettino in cui l'intimità, la coppia e quello che si fa dentro, soprattutto una coppia adolescenziale, è proprio importante che sia qualcosa di autogestito, no, internamente alla coppia, ma non perché deve andare verso direzioni appunto di trasgressione o chissà quali spazi di segreto pericolosi, ma perché in realtà spesso sono coppie queste che si reinsettano un po' nel divano, no? Un po' regressive. Un po' adolescenti con le pantofole e il batticuore, dai. Un po' però così. È come se appunto sono appunto troppo simili a un tipo di affetti, relazioni e esperienze di vita da quella dell'infanzia, cioè sostanzialmente sì. Va bene, allora prima. Laura Vanossi ci sta segnalando che si sta sbracciando, chissà quando toccherà lei alla sua bambina di avere il fidanzato, adesso fa la chissà furba. Chissà se è la scuola materna. Perché è piccola, ma capiterà anche a lei, dottoressa Turuani. Grazie per essere stata con noi, grazie a voi che ci avete seguito, a Filippa anche Oreggi oggi che era preoccupato esatto, per questo duo un po' ma perché è disabituato, deve fare più spesso la regia di Cuore e Denari. Ringraziamo anche Marco Lombardo, va c'era anche lui oggi, torniamo domani.